Prego di accomodarvi e vi ringrazio per la presenza veramente numerosa. Solitamente le presentazioni dei libri di poesia non sono così partecipate, per cui sono veramente felice. E il primo saluto e ringraziamento va a Riccardo Massai, il direttore di questo teatro piccolo ma formidabile, perché se voi prendete la brochure, non si chiama brochure, come si chiama? Il libretto degli spettacoli di quest'anno, c'è veramente un cartellone degno di un teatro, cioè di quello che dovrebbero essere i teatri oggi, e non lo sono più i grandi teatri. Quindi sono ancor più onorata di essere in questo luogo. Il secondo grazie va alla signora Nicoletta, di nome di fatto Gentile, di cognome Pescarolo, che dopo 6 anni che questo libro giaceva nel famoso cassetto con la impossibilità di trovare un editore per ragioni tuttora a me fondamentalmente poco chiare, anzi oscure, insomma, mi ha regalato l'edizione di questo libro, non avendo più una collana di poesia, quindi è un libro uscito fuori collana, quindi particolarmente generoso anche da parte sua, così come generoso da parte di Riccardo, prestare un teatro che non è un luogo deputato appunto alla presentazione di libri di poesia, ma in questo teatro si fa anche una stagione parallela di poesia di cui appunto farò fortunatamente parte, in quanto che il 2 febbraio ci sarà una serata di poesia e musica in cui reciteremo, che si intitola Poesie d'amore e di morte, in cui io e il pianista Leonardo Brizzi faremo un vero e proprio spettacolo di poesia. E stasera, insieme alla presentazione di Crolli, troverete sul banco delle vendite anche un DVD. Questo perché ho fatto un lavoro alcuni mesi fa, che era un lavoro teatrale con un DVD però fruibile anche indipendentemente dallo spettacolo, che si intitola Racconto d'infanzia, e che abbiamo poi autoprodotto io e Massimo Liverani, che ringrazio per la presenza qui, e che ho voluto portare stasera perché il libro esce in maniera per me anomala, senza un supporto multimediale. In effetti Crolli non doveva intitolarsi solo Crolli, ma Crolli, Controlli, ed essere accompagnato da un CD e un DVD. Questo poi naturalmente non è stato possibile per ragioni economiche, per mancanza di finanziamenti di cui ho cercato richiesta pubblica senza purtroppo ottenerla. Però chi volesse poi acquistare il DVD Racconto d'infanzia troverà qualcosa che non c'entra assolutamente niente col libro che presentiamo stasera, ma che purtuttavia è parte in qualche modo, non spiego perché, per ragioni sia esistenziali che artistiche, delle cose di cui stasera parleremo. E stasera sono con noi due persone per me molto speciali, perché innanzitutto amici cari con i quali mi diverto, cosa non facile per me che non mi diverto con tanta facilità, cioè la professoressa Caterina Verbaro, mia amica dai tempi dell'università, è attualmente docente di letteratura italiana contemporanea alla Seconda Università di Napoli, e Stefano Giovannuzzi, docente sempre di italiana contemporanea dell'Università di Torino, per cui sono molto onorata di avere ben due professori universitari in una materia nella quale entro per ora da viva. Normalmente ci si occupa dei morti, anche se contemporaneo. Posso sempre morire durante la presentazione, ma avreste già parlato, il che non va bene. Infine farà un intervento Renato Ranaldi, di cui non dico nulla perché È come di cui posso solo dire che è una specie di anima gemella pittorica da tutta la vita pensante. Con lui ho fatto già un altro libro, in questo libro c'è una sua opera, è una figura per me di riferimento assolutamente presente, senza che io nemmeno realmente capisca bene il perché. Per cui non lo dico, forse lui capisce più di me e dirà questo qualcosa. E dopo io farò una lettura performativa con uno strumento, secondo me, necessario per dare voce a queste poesie che sono assolutamente diverse da quelle che io ho scritto nei miei non mi ricordo quanti libri precedenti e che non so in realtà come recitare, quindi ho trovato il sistema di impedire, perlomeno impedire la fluidità vocale che invece mi contraddistingue con un oggetto ortopedico, che peraltro uso per fare appunto lo spettacolo su Santa Teresa di Lisieux, quindi tutto torna. E qui mi taccio, mi siedo, ringrazio in particolare voi che siete venuti, tanti amici, ma anche volti che non conosco, pochi, ma sempre di più di quelli che normalmente sono alle presentazioni di poesia. E passo la parola a Caterina Verbaro. Buonasera a tutti. Allora, parlare di questo libro non è facilissimo, perché fare un discorso critico, come dire, presuppone il tentativo di ricostruire un ordine, un tessuto, diciamo, razionale, logico, in un libro che per sua natura tematizza il disordine. Lo tematizza a partire dal titolo su cui io vorrei un po' ricamare, perché lo trovo veramente un titolo molto molto indicativo e molto significativo. E soprattutto partirei dalla pluralità di questo titolo, nel senso che non siamo davanti a un crollo, ma davanti a crolli. Dico questo perché questa azione del crollo, questa semantica del crollo, a mio parere è quello che lega un po' insieme tutti i testi e tutte le parti del libro, che pur essendo non lunghissimo è però molto ricco e molto composito e anche composto da testi piuttosto diversi fra di loro, ma in qualche modo tutti associati, tutti tenuti insieme da questa semantica dei crolli. Che cos'è che crolla in questo racconto poetico di Rosaria Lo Russo? Crollano diverse cose, crolla per esempio la lingua, ci sono delle poesie che sono specificatamente dedicate al crollo della lingua, alla Babele, e questo è un tema tipico di Rosaria. Crolla per esempio la nostra vita pubblica, la nostra vita associata, ma soprattutto c'è un'area su cui mi vorrei un attimo soffermare, un'area di crollo, che è un'area che associa insieme due oggetti che sono, a mio avviso, centrali in questo libro, che sono la casa e il corpo. La casa e il corpo sono associati fra di loro tanto da diventare un unico luogo dei crolli. Questo tipo di associazione è molto sapiente, molto insistita in tutto il libro, ed è anche un'associazione, se ci pensiamo, tra organico e inorganico. La casa e il corpo sono una sorta di unico guscio esistenziale che appunto si sgretola progressivamente attraverso questa semantica del crollo. Io posso provare a dare qualche esempio delle cose che dico per non essere troppo astratta. Leggo qualche verso. Le cose colte sul fatto impertinente, da lato, imperturbabili, espongono penombre e pieghe incrinate come rughe d'espressione. Le crepe simmetricamente segnalano rischi di selvatiche estinzioni o caducei fulminanti peritoniti d'intonaco. Rimbomba un sordido risveglio riassopendosi. e credo che si colga da questi pochi versi come si crei appunto quest'area metaforica in cui le crepe sono anche rughe, le peritoniti sono peritoniti d'intonaco, quindi questo unico luogo che è appunto la casa corpo. In questo scambio di organico e inorganico di cui è intessuto il libro ci sono diversi effetti. Uno, per esempio, è quello della presenza di oggetti animati, c'è quasi un'animazione surrealista di questi oggetti, che però nel libro non si chiamano oggetti, ma si chiamano sempre cose, e questa parola secondo me è particolarmente importante. Il primo verso, quello che apre il libro, è bellissimo, molto, molto emblematico: le cose bistrattate dai molti sgomberi mi serbano rancore. E già basterebbe questo per capire come c'è questo clima di appunto animazione surrealista. O ancora, questa invece è la seconda poesia: le cose gelosamente asseverate si vendicano dei subitanei spostamenti spalancando corolle, maniglie come gli occhi invasati degli innocenti. Queste cose diventano quasi bambini inquietanti. E simmetricamente a questo c'è un altro effetto piuttosto frequente, che è quello del corpo che diventa inorganico, delle parti del corpo che in qualche modo si disfano, quindi una sorta di corpo oggettualizzato. Anche qui leggo qualche verso per rendere conto di quello che dico. E penso che dall'altra parte, nel tuo di fronte vuoto, le rughe crettano il pallore verde in cui affonda il tuo sguardo, che scivola profondamente nel viola delle occhiaie. Scivola lentamente anche il cuore, sciogliendosi come gesso fra dita sudate. Quindi qui vediamo questo effetto di oggettualizzazione dei corpi. Un tema di fondo di questo libro è proprio quello del disfacimento somatico, del disfacimento del corpo, della patologia. C'è una vastissima, come dire, fenomenologia del male fisico, del disfacimento fisico, in particolare che riguarda l'area delle ossa, della pelle, degli occhi. E anche qui potrei fare degli esempi, ma non lo faccio perché non voglio rubare troppo tempo. Particolarmente interessante, e questo molto tipico della poesia di Rosaria, mi sembra il fatto che questa grande area semantica, che è la casa corpo, si costruisca attraverso un cortocircuito che è soprattutto di tipo fonico. Non a caso la casa, il corpo, le cose giocano sull'insistenza della sillaba C. Io non so se è una mia impressione, ma ho la sensazione che sia un libro continuamente intessuto da isotopie e ritorni di tipo fonico e sillabico, consonantico. Ci sono queste C insistenti che ritornano, e soprattutto la CR, no? la CR. Che non a caso la CR sono le sillabe che aprono due parole tematiche del libro, che sono appunto crolli e crepe, che sono appunto molto molto molto frequenti. E tra l'altro un termine come crepe mi fa venire in mente quanto la sapienza verbale di Rosaria Lo Russo giochi spesso con la doppiezza semantica, perché le crepe sono insieme le incrinature che preludono al crollo, ma sono anche diciamo, la derivazione del verbo crepare, no? Del popolare di morire. E il verbo crepare o il verbo morire sono molto semanticamente centrali in questo libro, perché c'è una sorta di presenza della morte in questo libro, pulviscolare mi viene da dire, in qualche modo non sempre esplicitata, ma in qualche modo aleggiante. Questi crolli non sono altro che una specie di presenza prolungata del topos della morte. Questo elemento, tra l'altro, di cui avevo, diciamo, la percezione leggendo il libro, mi si è confermato quando sono arrivata alle ultime due poesie, che io trovo forse le le più belle, le più intense del libro, che sono significativamente scritte in una, in un'epoca successiva. Ci avverte l'autore che le poesie di questo libro risalgono a un periodo che va dal 2005 al 2008, tranne le ultime due, che sono del 2010 e del 2011. E queste ultime due poesie sono assolutamente centrate sul topos della morte, quindi l'impressione è un po' che questi crolli in qualche modo arrivino a questa conclusione. E non a caso, per esempio, c'è un topos che è quello della polvere o della cenere, che è presentissimo nel testo. Qui non posso fare a meno di leggere qualche verso. Otturare le crepe, cremare i cadaveri, sbuffa imponendo, polvere alla polvere, e le ceneri siano disperse, ridisegnando reticoli di lumi a questi barbuti neroni. Nell'ultima poesia, che forse poi Rosaria potrebbe leggere, si parla, è una poesia dedicata al ai terremotati dell'Emilia, e questa polvere diventa la polvere di casa in cui si assiepano le donne morte, in qualche modo gli avi, e la polvere è definita parche domestiche, no? Quindi la presenza della polvere è una sorta di presenza della morte, di presenza della morte in vita. Questo perché, come dicevo, questi crolli sono una sorta di azione processuale, cioè è un crollo che non finisce mai, è un crollo in continuo movimento, una sorta di tensione in atto. E Rosaria è particolarmente abile proprio nel rappresentare il movimento, proprio perché la sua lingua e il suo linguaggio poetico è tutto virato proprio sul dinamismo, sulla capacità di dinamismo verbale, che in qualche modo appunto riesce perfettamente a ricostruire questa idea del movimento, no? Dei crolli che continuano. C'è per esempio una prosa nel testo che racconta le evoluzioni di due pattinatori sul ghiaccio, ed è un esempio, secondo me, davvero quasi virtuosistico di questa capacità di dire il movimento e di dirlo con una lingua in movimento. Ecco, dicevo all'inizio che sono molti gli oggetti di questo crollo, non solo la casa corpo, ma una buona parte delle poesie è dedicata in qualche modo alla nostra vita pubblica, alla vita sociale, al caos del mondo che ci circonda. E anche se, diciamo, riferimenti all'attualità spesso denotano proprio il fatto che queste poesie sono scritte qualche anno fa, no? Ci sono riferimenti a Berlusconi o alle morti bianche, insomma, ad attualità trascorse. Ecco, ma dico questo soprattutto perché vorrei notare come questa tematica, diciamo, del caos, della pluralità crollante, diciamo così, è perfettamente espressa proprio nel modulo espressivo di questo testo, che è quello dell'accumulazione, del catalogo, no? Proprio gaddianamente inteso. E naturalmente non c'è modo migliore per raccontare il caos che ricostruirlo linguisticamente in questa espressività accumulatrice, in cui non c'è una gerarchia, in cui gli oggetti si affastellano appunto caoticamente e come in un crollo di significati. Naturalmente tutto è tenuto insieme, questo è tipico della scrittura di Rosaria Lo Russo, da questo demone fonico, no? Diciamo, i termini si legano tra di loro in base ad una suggestione fonica e musicale, ad una serie di allocuzioni e paranomasie di tipo fonico. Ma in questo libro, per esempio, ho notato che più che altrove mi mi sembra, c'è non soltanto una suggestione fonica su cui è costruito il verso, ma anche una suggestione ritmica, c'è spesso una ritmicità che è molto regolare, molto diciamo scandita, ci sono addirittura degli endecasillabi molto, molto sapienti e che hanno un preciso significato, insomma, quindi c'è davvero una grande sapienza ritmico-metrica. Ecco, l'ultimo aspetto di cui volevo rapidamente parlare e si lega a quello che dicevo a proposito di questa area della rappresentazione della vita pubblica, è una tonalità, non so se sbaglio a definirla così, quasi da poesia civile di questo libro. E intendo poesia civile in un'accezione particolare, che è l'accezione pasoliniana, se vogliamo. Cioè una poesia civile che non ha l'ambizione di cambiare, di incidere, di modificare le cose, ma che è essenzialmente virata su un tono dolente, su un tono rassegnato. C'è per esempio una poesia che si apre e si chiude con questo verso: e non mi preme la nostra salvezza, no? Quindi è quasi una denuncia in qualche modo non solo rassegnata ma affermativa. C'è spesso in questi testi una sorta di spirito dolente, quasi uno spirito compassionevole, che quasi si oppone a questo furore linguistico, fa un po' da bilanciamento, da contrappasso. E questo, io non so se sbaglio, lo dico in forma di domanda a Rosaria, ho l'impressione che pure all'interno di questa grande vivacità verbale e verbigenerativa e traslitterante che caratterizza la poesia di Rosaria, in questo libro ci siano dei testi che accedono ad una misura espressiva molto più pacata e, a mio avviso, anche molto più, dico forse una parolaccia, autentica. C'è un elemento di autenticità che non avevo mai avvertito così forte nella tua poesia. E non a caso, quando emerge questo elemento che io avverto come autenticità, e non so se mi sbaglio, il testo si fa più pacato e più efficace. C'è una poesia, ad esempio, che mi piace molto e che insomma è la mia preferita, diciamo, che parla di ricordi d'infanzia, inizia con il verso: sulla fiumara secca si deposita una melma, si parla della degradazione di un paesaggio caro nell'infanzia, e si avverte, diciamo, una tonalità che è quella del ricordo d'infanzia, che mi sembra molto più presente in questa raccolta che non nelle raccolte precedenti. Ho la sensazione che nel momento in cui c'è un accesso reale a questi ricordi d'infanzia, il furore linguistico si plachi, come se il ricordo, come se la memoria funzionasse un po' da contravveleno, da elemento equilibrante. Tra l'altro, guardando i libri precedenti di Rosaria, mi è capitato di leggere sulla quarta di copertina dello Dittatore Amore questa frase: raramente la sua è poesia memoriale. E allora ho pensato che forse c'è o c'è stato nel passato una sorta di demonizzazione della memoria, come se nella memoria ci fosse un elemento, appunto, di pericolo lirico, di pericolo di accesso immediato alla poesia. Non lo so, però insomma mi sembrava significativo notare questa coincidenza, cioè che i testi in cui questo accesso alla memoria è più percepibile sono anche i testi in cui il furore linguistico si placa. E in questo senso cito ancora le due ultime poesie, che sono appunto molto più, diciamo, meditate, lasciano molto più spazio al silenzio, soprattutto la penultima, che è una poesia con un sottotitolo che è Elegia, e che non a caso è una poesia in cui si avverte una forza, uno strazio reale, che in qualche modo cura questo furore linguistico che invece caratterizza la poesia di Rosaria. E io credo che questa potrebbe essere una nuova via ancora più intensa di una poesia futura, almeno questa è la mia impressione. Io ho finito, grazie. Ringrazio Caterina per questa lettura veramente approfondita, intensa e anche esatta per molti aspetti, che però mi ha chiamato in causa su alcune cose e di cui mi approfitto per, come una risposta immediata, veloce, anche perché poi si capisca qualcosa durante la letteratura. Per esempio, ha detto della lettura, scusate, che se no non si capisce niente, perché sono poesie troppo difficili da capire per chi non è abituato a leggere poesia se non si spiega qualche minima cosa. E per esempio, quando ha detto di questo senso della morte pulviscolare, è perché in realtà queste poesie, che sono vecchissime ormai, risalgono alla guerra in Iraq e sono state scritte guardando in televisione la guerra in Iraq e con questa angoscia fortissima di vedere il Tigre e l'Eufrate, cioè quello che era l'inizio della civiltà e che ci piaceva tanto studiare alle medie, e che stava finendo, che poi è veramente l'emblema del famoso tramonto dell'Occidente, di cui scrisse, aiutami che io sono smemoratissima, Spengler, un bel pezzo fa. Ci si sta mettendo molto a tramontare, ma siamo giunti al tramonto dell'Occidente e ci manca veramente ormai quasi niente. Sicuramente, per esempio, le radici, appunto, dell'Occidente, quelle della zona che fu la base, che ora si chiama Iraq, è quella l'hanno polverizzata. Dal che, quindi, la presenza poi di questa presenza pulviscolare, letteralmente, è la polvere veramente della sabbia del deserto. Il fatto poi invece della poesia più autentica e meno non autentica è da leggersi in maniera un po' più invece letteraria, perché l'autenticità, che indubbiamente qui c'è, non è una scelta di mancanza di retorica, è una scelta di antiretorica, che sempre retorica è. Cioè, i libri scritti fino a questo libro sono libri di a struttura parodica, volontariamente parodica, mentre qui è finita la fase parodica completamente. Infatti questo libro nasce dopo 5 anni in cui non ho scritto assolutamente niente. Dopo Lo dittatore amore per 5 anni non ho scritto nulla. Quando ho sentito di nuovo accendersi il ritmo della poesia, che si accende per conto suo nella testa, da qualche parte, a meno che uno non sia un falso poeta, come ci sono i falsi profeti, perché poeti e profeti si sa, si assomigliano in qualche modo. Comunque, se lo scrivessi oggi questo libro lo intitolerei Tracolli, però. Nel senso che siamo proprio oltre, siamo andati anche oltre l'orrore di cui si parla qui. Ecco, dicevo, ho belle persi il filo, ovviamente. Il ritmo. Mi accorsi che stava succedendo ed ero contenta, ero appena salita in macchina e mi colse il primo verso della che poi veramente la prima poesia. Mi accorsi che era ripartito il nastro poetante, come lo chiamo io, perché era partito un ritmo proparossitono, e voi direte, eccoci, che ha detto? Proparossitono vuol dire, gli accenti in italiano possono essere proparossitoni, parossitoni o rarissimamente ossitoni, cioè sull'ultima, la penultima o la terzultima. È difficile che le parole italiane abbiano l'accento sulla terzultima sillaba. Quindi il fatto che queste parole tendessero a interiorizzare, ecco, anche se il dialetto toscano tende a essere proparossitono, quindi quello sicuramente mi facilitava. Cioè i toscani quando sbagliano mettono l'accento sulla terzultima invece sulla penultima. Però Questa era la variazione ritmica che ha dato l'avvio al processo. Poi il processo è rientrato in questo elemento verbigenerativo di cui parla lei. Cioè il furore linguistico lì per lì, paralizzato da questa, da questo ritmo che tendeva a andare indietro invece che andare avanti, quindi a fare un processo di silenziatore invece che di vocalizzatore, è la fonte di tutto, per cui mi sembrava interessante dirlo a conferma di quello che ha detto Caterina. E adesso subito, il memoriale non so perché abbia scritto quello della quarta di copertina dello dittatore, perché in effetti commedia è tutto un libro di memoria, cioè commedia è la mia vita fino a adolescenziale, metà in Calabria, metà a Firenze, ed è tutto memoria. Qui la memoria non c'è, nel senso che qui la memoria c'è solo in quella poesia che ti piace perché sei calabrese per intero, mentre io per metà, che è una poesia dedicata appunto alla fine, alla distruzione della mia piccola zona di Calabria, dove infatti non vado più. Ah, vabbè, ce n'è un'altra, sì, sull'anoressia, vabbè, ma poca roba in realtà. L'ho fatto tutto guardando la televisione, anche la roba degli pattinatori. Ero abbastanza avvilita, però mi piacciono molto i pattinatori sul ghiaccio. Ho cominciato a scrivere cosa stavano facendo e poi sono diventati, i due pattinatori diventavano, mentre li scrivevo, Paolo e Francesca nella bufera invernale che non si ferma mai, no? Per cui mi divertivo ancora di più, allora ho insistito moltissimo. E con ciò passo la parola a Stefano Giovannuzzi, che ormai non ce l'ha più nulla a dire, perché questo libercolo infinitesimale. Sentiamo cosa ci racconta il professor Giovannuzzi, arrivato ora da Torino. Allora, vediamo di non litigare, perché io invece, sulla parodia invece qualcosa direi, perché secondo me una dimensione parodica è molto forte all'interno di questa raccolta, c'è. No, per ora non reagisco. Bene, alla fine. Questa raccolta è fatta di queste dimensioni che bene sono state illustrate da Caterina Verbaro. C'è appunto una linea che è, come dire, la continuazione anche delle raccolte precedenti, una sfera fortemente autobiografica. Legame per esempio con commedia, c'è in alcuni aspetti di maternità nascita che anche qua vengono ripresi, per esempio c'è un forte tema, una forte linea di continuità senz'altro, il rapporto con l'altro naturalmente, con se stessi, con se stessa, anzi il tema del corpo, il sangue, tutto quello che è stato detto, le cose naturalmente, questo stabilisce un filo di forte continuità indubbiamente. E poi c'è l'altro versante, naturalmente civile. Ora, a me pare che questo secondo versante, molto presente, molto visibile, e mi fa piacere di aver sentito quello che ha detto Rosaria. Queste poesie le ho scritte davanti alla televisione, perché la televisione è una presenza fortissima all'interno di questa raccolta. La televisione, e in particolare, mentre lei parlava, mi era venuto in mente anche a me, perché non ero un ragazzino a quel punto, ma gli ultravioletti di guerra corruschi sono le immagini, nel 2002 se non mi sbaglio, della seconda guerra in Iraq. Era evidentissimo questo, no? Quindi c'è una presenza della televisione fortissima e su questa presenza, io credo, si innesta proprio una reazione fortissima, in senso, forse parodico non ti piace, ma fortemente dissacratorio, perché quella sfera dell'essere, che è una sfera che, poi cercherò di mostrarlo magari con qualche testo, entra violentemente. Nelle altre raccolte non ho mai percepito, non ho potuto rileggere tutto perché non avevo tutto con me, ho riletto quello che avevo un po' a campione, però non mi sembra che ci sia nelle raccolte precedenti una presenza così violenta, così drammatica della sfera pubblica, per cui si va davvero dagli scandali dei primi anni 2000, la vicenda dell'Iraq, gli Stati Uniti e Obama e la Clinton, no? Naturalmente. Allora, io non l'avevo avvertita, qui entra e entra davvero in modo molto violento, e entra in modo violento, come dire, in qualche modo modificando un tipo di linguaggio che è cresciuto intorno al corpo e forse anche ad una serie di rituali che sono della tua poesia, che vengono travolti, vengono spostati in altra direzione. Ora sto riorganizzando quello che avevo pensato, ma cioè a un certo punto tu parli, si parla delle urne, e queste urne sono nello stesso tempo urne elettorali, ma sono ancorate ad un'altra sfera, che è quella appunto giustamente ricordata da Caterina, della morte, eccetera. Allora, si vede come dall'uno si passa nell'altro, e questo avviene in maniera sistematica, cioè siamo di fronte, forse attraverso davvero quel diaframma della televisione, ad una quantità di linguaggio che è un linguaggio fortemente mistificatorio e che si intrude pesantemente all'interno del tuo linguaggio tradizionale. Questa è la sensazione che io ricavo. Nei confronti di quel linguaggio scatta una violenta reazione che è parodica e dissacratoria. Vediamo un attimo se lo mostro con qualche esempio. Proviamo a leggere questa. Aspettate, scusate. Eccola, sì, questa. Non leggo l'inizio. Mamma li turchi, annuncia l'annunciatrice. Insomma, scaltra ammiccando uno sconto di civiltà. Naturalmente uno si aspetterebbe scontro, bene, gli piazziamo una mina a tre piedi, disinneschiamo la banalità del linguaggio e diventa sconto di civiltà. E così subito dopo, per chi imbiancasse poveri da spolvero, è naturale che si tratta di polveri da sparo, ma è evidente che smontato e ricostituito in altro modo un linguaggio che appunto è il linguaggio dei media, il linguaggio della comunicazione, il linguaggio della pubblicità, non a caso quella pubblicità che poi spinge Rosaria a riempirsi di tasche di merci che non le servono in altre poesie, no? Allora, questo linguaggio, nei confronti di questo linguaggio si deve reagire con un'operazione di demolizione. Certo eccesso, perché a volte è veramente fortissimo, certo eccesso nel gioco scombinatorio e ricombinatorio del linguaggio, io credo che sia legato a questo. È evidente che i poveri da spolvero, come dire, riconquista una verità e un'autenticità drammatica al linguaggio che è annullata nella comunicazione di massa, nella comunicazione televisiva. Tant'è che l'obiettivo di questa poesia, dove compaiono bocche disfatte da mano morta, manomettesse pure o Ponzio Pilati di un altro canale, eccetera eccetera, evacuare i canili degli sfidanti sfedeli, rastrellare adozioni avide, distanze di infanti, dove poi è anche, a ragione Rosaria, è anche difficile individuare i singoli elementi che sono in gioco, ma a volte si ha l'impressione che stia prendendo un linguaggio a cui siamo resi, come dire, molto abituati, per esempio le adozioni a distanza, e ne mostri come tutto questo non sia soltanto una dimensione falsa del linguaggio, ma, e questo poi è un aspetto su cui volevo forse dire alcune cose, è anche una dimensione falsa dell'essere, paradossalmente, perché questa è una cosa che segnalo fin da adesso, è una lingua che vuole essere cosa? Questa è di Amedeo Rosselli, chiedo scusa, lapsus terrificante, effettivamente uno scivolone che non ci poteva non essere. Chiedo scusa, ma mi si sono almeno stappate le orecchie dopo 3 ore di treno, sì, dove il dente duole. Comunque, è un linguaggio cosa in qualche modo, per cui questa operazione di, come dire, sistematico, violenta demistificazione ha come obiettivo alla fine tornare alla lingua di casa una volta stravinto un vuoto. Questa è la conclusione di quella poesia, appunto, di cui avevo citato altri frammenti. Dunque si tratta di compiere un'operazione che è di annullare la lingua vuota da cui siamo infiltrati ogni giorno attraverso naturalmente i media e tutto quello che ci circonda, la televisione, la pubblicità, tutto quello che volete, la politica, tutti i linguaggi più abusati e più consumati, questo è il vuoto, annullare questo vuoto, e lo facciamo ovviamente mettendo in crisi quel linguaggio, la sua banalità, per arrivare ad una lingua che è la lingua di casa, cioè una lingua originaria, una lingua autentica in qualche modo. Ecco, io questo credo che sia la ragione che spiega, come dire, davvero una virata da questo punto di vista notevole nella lingua di questa raccolta, perché è vero che la dimensione della lingua e del gioco linguistico è sempre molto importante nella tua poesia, però qui mi pare che acquisti davvero una, come dire, una finalizzazione molto precisa, per cui la raccolta è a molto ragione, Caterina, poi finisce anche secondo me per orientarsi davvero su due polarità. Una polarità che ha una forte connotazione, io la definisco così, privata, memoriale, autobiografica, dolente, elegiaca a volte anche lì drammatica, e dall'altra parte l'altra polarità è rappresentata invece da questa violenta contestazione linguistica dell'universo falso, della politica, della comunicazione, eccetera, eccetera. Tu in un'altra poesia, la recupero, tu scrivi: così ci rubano, ed è l'inizio, rimetta, l'antica lingua, disseminando Babilonie come scrollassero di dosso torri babelliche, che confuso sparigliano idiomi suppellettili, isnervanti, soprammobili da spolvero. Ci rubano l'antica lingua, cioè ci rubano la lingua in pratica. Cioè siamo, il fatto che Rosaria Russo non possa che scrivere davanti al televisore è certo, come dire, la reazione a un evento drammatico, violento, come la guerra d'Iraq è stata, ma è un emblema della nostra condizione d'essere, cioè del vivere davanti a questo, che sia televisore o computer, vivere di fronte a questo strumento che è il canale unico da cui proviene l'informazione linguistica. Ora, è interessante che si avverta così come attraverso questi strumenti ci rubano l'antica lingua, e naturalmente le Babilonie di cui si parla è un riferimento naturalmente alla guerra, e quello che ci restano sono idiomi suppellettili, cioè soprammobili polverosi. Allora, tutta l'operazione, insisto ancora su questo aspetto, è un lavoro, come dire, non tanto di scavo, ma proprio di contestazione frontale di questa lingua. Una contestazione che naturalmente avverte i propri limiti e le proprie difficoltà. C'è un testo che a me piace molto e che vi vorrei citare, ed è un testo a pagina 25, adesso lo recupero abbastanza rapidamente. È il primo dei tre dissonetti sul crollo della borsa. A me, questo è un testo che a me piace. E c'è naturalmente, ancora c'è naturalmente, come si potrebbe dire, il consumismo più bieco. Ancora ti attirano le chincagliate cinesi, ancorché tossiche, le cianfrusaglie di vetro, eccetera, eccetera. C'è tutto un catalogo, come dire, del consumismo davvero che va dal cappottino che Rosaria, come io, ci possiamo permettere, a chi acquista le 10.000 azioni, ma sono sullo stesso piano, siamo di fronte davvero alla banalità del quotidiano. E la cosa che mi interessa è arrivare però alla fine: affilo le cesoiuzze e il coltellin dolente, ma consapevole che un filo interdentale mi sarebbe al momento meno inutile. A me piace molto questo testo perché la citazione di Cavalcanti è esplicita, e da uno, fra l'altro, dei testi più metapoetici dello stesso Cavalcanti, noi siamo le triste penne sbigottite, uno dei testi più belli, bellissimo, di quell'autore. Benissimo, perché mi sembra proprio un momento di assoluta trasparenza e di rivelazione. In che senso? È chiaro che io muovo la mia battaglia contro il linguaggio massa, ma sono anche consapevole sono anche consapevole che affilo in fondo cesoiuzze e coltellini rispetto a questa massa incancrenita di linguaggio che è difficile da rompere. Però la cosa che mi sembra importante è che in questa operazione non è, come dire, l'operazione privata di Rosario Russo, è un'operazione che convoca la letteratura in questo disegno. Cioè, in fondo, pur nella sua fragilità, nella sua debolezza, alla letteratura e alla sapienza anche retorica e formale della letteratura viene affidato questo strumento di affilare, questa possibilità di affilare strumenti che possono essere anche strumenti esili, eccetera, ma che sono strumenti strumenti comunque a cui facciamo riferimento. Lo dico proprio in conclusione, c'è un'altra presenza, ci sono molte presenze con cui Amelia Rosselli due, con cui Rosaria Russo, no, sono stanchissimo oggi e quindi, come dire il emerge una sorta di flusso. Beh, ci sono molte presenze con cui Rosaria dialoga, nelle sue raccolte precedenti, ma anche in queste, Dante o Campana in altre, la Sexton, d'accordo. Qui c'è anche un dialogare, per esempio, con certi modi di decostruzione del linguaggio, non dico che siano gli stessi, però c'è un dialogare anche con Amelia Rosselli, direi, in qualche modo. Perché in fondo questo tipo di operazione sul linguaggio è come se uno dicesse, io direi, sto facendo adesso un giochetto retorico, giusto per chiudere un po' queste poche osservazioni, come se attraverso Cavalcanti si creasse anche una catena di solidarietà per cui, non soltanto Cavalcanti, ma direi in alcuni testi forse più visibilmente che in altri, Amelia Rosselli diventa l'interlocutrice, diventa un possibile riferimento. Cremare cadaveri, per esempio, c'è in una poesia, ma poi anche tutti questi morti, o quest'idea, il mondo vedovo, quest'idea della guerresca, bellicosa che attraversa la raccolta, ecco, sia non qualcosa, un'autrice da plagiare o da riprodurre la lettera, ma sia un modello anche a cui guardare, in senso, come si potrebbe dire, proprio antagonistico rispetto ai linguaggi correnti. Ecco, questo forse in modo un po' confuso era quello che avevo intenzione di dire, no? Per cui mi sembra un'operazione in effetti interessante e che mi sembra anche giustificare quello che mi aveva molto colpito e quindi me l'ero segnato all'inizio, una delle prime cose che ha detto Rosaria. Questa raccolta è assolutamente diversa. Effettivamente c'è una diversità, ma c'è una diversità perché credo ci sia davvero questa reattività probabilmente molto maggiore e più estroversa, più puntata all'esterno, più puntata ad una realtà che è sempre più devastante e che ci impone in qualche modo di reagire con un linguaggio che vuole essere linguaggio verità, in qualche modo, io credo. Grazie a Stefano per la sua lettura filologicamente molto azzeccata e acuta e che dà una chiave di lettura fondamentale per capire, se qualcuno ci si vuole proprio cimentare, questo libro, perché il gioco, appunto, sconti di civiltà è continuamente presente esattamente con la volontà secondo cui lui l'ha interpretata, cioè la poesia che ha la funzione civile di combattere la lingua idiota, cioè straniera dal greco, la lingua idiota dell'imbecillità occidentale che noi abbiamo ormai assodato, credo completamente, no? Cioè, non credo che ci sia più nessuno che crede che qui si possa ancora salvarsi in qualche modo. Appunto, non mi preme la nostra salvezza perché i sonetti iniziano e finiscono sempre con lo stesso tema e quel dissonetto comincia con la salvezza e quindi finisce non mi preme la salvezza, ed è propriamente vero, no? Cioè sono contenta che crollino le borse, vorrei che crollassero sempre di più le borse, vorrei che le borse non ci fossero più. Questo fondamentalmente è l'ideologia utopica ma realistica e unica possibile per la sopravvivenza del pianeta stesso. Oltretutto, nei 6 anni in cui questo libro giaceva in attesa di pubblicazione, ho scritto nel frattempo un altro libro che speriamo non esca fra 20 anni, perché sennò se rimango sempre indietro, che si intitola Nel nosocomio, di cui sono uscite alcune poesie per un'edizione piccola, dove decisamente si passa proprio alla poesia civile. Io a un certo punto mi ricordavo Nel nosocomio, ero convinto che fosse la raccolta, e sono stato disperatamente alla ricerca di Nel nosocomio, che invece è un progetto. 12 poesie di Nel nosocomio con Transeuropa, che ora però me lo vuol far fare con ebook, io gli ebook non li voglio, ma Nel nosocomio è quasi finito e lì si parla un linguaggio invece ormai assolutamente quasi prosa. Cioè, esperite ormai tutte le possibili verbigenerazioni, dalla parodia alla parodia della parodia, al gioco di parole, sconto, scontro, eccetera, eccetera, adesso il progetto poetico è però sorretto da un linguaggio prosastico, e quindi il prossimo libro, dico io, sarà la volta che davvero lo vendo, perché si capisce tutte le poesie, no? Mentre qui, insomma, bisogna mettersi a studiare un po' troppo. E adesso do la parola al pittore, scultore, disegnatore Renato Ranaldi, che ha partecipato a questo libro con un'opera che si intitola Crolli e che non poteva essere così. Io sono molto grata a Nicoletta Pescarolo di aver accettato di accollarsi quest'ulteriore spesa in tempi di crisi, però era impossibile per me non mettere un'opera fatta nello stesso anno in cui io stabilivo che Crolli fosse la parola chiave, incontro Renato, noi spesso ci incontriamo per strada e ci si parla, ma ci si fosse visti 5 minuti prima, magari sono passati 6 mesi, e gli dico, ho da farti vedere subito una cosa, dice, vieni domani allo studio, vado, gli porto una piccola edizione di Crolli uscita per mano di un amico a Trieste con le prime poesie, e gli dico, lui fa Crolli, fa Madonna, fa lui, guarda, apre, c'era l'opera Crolli che c'è nel libro. Per cui forse lui avrà qualcosa da dire a riguardo di questa nostra strana confluenza di linguaggi. Renato Ranaldi, maestro, lui non vuole, ma io glielo fo apposta. Glielo fo apposta perché mi diverto a farle un cazzare. Due ce n'ho io. Due ce n'ho, questo c'ha il filo meglio per la recita. Ora io mi sono reso conto di una cosa, forse è troppo tardi, ma va bene lo stesso, no. Di aver parlato della poetessa e non dei suoi versi, perché i versi ci vuole gli esegeti, ci vuole gente che sappia fare, appunto. E è un errore chiamare a parlare un artista, perché un artista fa il Don Chisciotte, e c'è da augurarsi che lo sia, e quando esce dallo studio non riconosce il mondo, non riconosce le cose del mondo, quindi saltano tutti i criteri, quindi non vi aspettate nessun criterio relativo a quest'opera della Rosaria Lo Russo. A pagina 62 di questo libro lei dice che io sono il suo gemello, insiste con questa storia del gemello, E tanto per rimanere nell'ambito della metafora, io pensavo di essere figlio unico della contraddizione. Vabbè, insomma, lei dice io sono il gemello. Però io credo di capire perché lei dice questo. Lei dice questo perché quando ci siamo conosciuti ha intuito che siamo due bugiardi, due grandi bugiardi. Abbiamo parlato di crolli, di tragedie, abbiamo minacciato tutti di crolli fisici, nervosi, poi non è successo niente del genere. Siamo rimasti con queste meditatissime scemenze a andare avanti, io a fare le mostre, lei a fare i suoi libri di poesia, eccetera. Forse è questo che l'ha intrigata, dice, ma questo è bugiardo come me. Cioè, allora, e noi abbiamo ingannato tutti, perché ci credevano a questa cosa? Ci credevano ai crolli nervosi, poi ora non ci riesce più a ingannarli, io non riesco più a ingannarli, non ci cascano più. Io ho un pessimo rapporto con la poesia, perché i poeti vogliono insegnarmi come vedere il tramonto, come sentire l'altro, come troppe cose mi vogliono insegnare, che cos'è l'eros, ci dicono come sentire le cose, è insopportabile questa cosa, la trovo. Qualche verso qua e là, ogni tanto, dici guarda che bella cosa, però questa morale di fondo è inaccettabile. Tanti anni fa io corredavo i miei disegni con delle didascalie e una volta ho letto a Rosaria due didascalie che gli sono piaciute. Una è questa qui. Dunque, si incrina il cristallo del bacio vetrino sotto il lampione del sogno che acceca senza gli occhiali scuri. E l'altra è, mi sono innamorato della donna elefante dalle gambe dritte come tubi di stufa. E questa disinvoltura delirante che io ho adottato per le didascalie, forse è la cosa che ha intrigato la poetessa, non tanto i segni, non tanto i miei disegni, quanto queste parole delle didascalie. Io rimasi colpito dalla sua potenza scippatrice, delle sue antenne, una specie di velocità con la quale fagocitava tutto e poi strumentalizzava per i suoi versi. Questo mi ha veramente colpito. Rosaria viene da un mondo dove si potrebbe morire per una virgola. Ha scoperto che bisogna andare verso i miracoli del peggio per liquidare la propria leggenda e per rigenerarla. E poi ha scoperto un'altra cosa importantissima, che bisogna essere malinconici. Un letterato, un sensibilissimo capoccione, ha scritto «In un mondo senza malinconia gli usignoli si metterebbero a ruttare». Personalmente approvo il linguaggio che si fonda su un sistema di addii, cioè un sistema di addii, proprio un vero e proprio sistema, dove il segno è una traccia testamentaria, cioè guardami, ascoltami, perché è per l'ultima volta, non mi vedrai più, non mi ascolterai più. Questo per me è fare l'arte. In questo senso, con questo diktat. E lei sembrava d'accordo. Questo forse è un altro elemento che gli ha fatto dichiarare di essere gemello. Una volta mi dichiarò questo, solennemente, con la poesia sono pronta a impazzire, senza la poesia muoio pazza. non aveva scelta e non dava scampo. Spermatozoi verbosi nascondono tristezze prudenti e anomalie previste, perché la poesia è bugiarda. Ecco, poi le sue turbe organiche sono elevate a canto e concetto. Sono sistema. È vero, no? Come dire di no, è vero. Appunto. È così che assicura una carriera alla malattia. In un quadro di negazioni, rinuncia a star bene con una certa perentoria grazia che impone. Questo è. Un giorno le dissi che è proprio vero che senza l'idea del suicidio uno si potrebbe ammazzare subito. Accidenta l'idea di felicità. Se non fosse esistita, uno sarebbe stato più tranquillo. Anche questo è un pensiero di un altro capoccione sensibilissimo. E lei mi rispose che prematuramente, da ragazzina, aveva realizzato che un giorno sarebbe morta. Scoperta grandiosa che di solito si fa quando la si fa in età matura. E aggiunse, quello che patisco non lo saprà nessuno, nemmeno me stessa. Si andava avanti a botta e risposta di questo genere. Noi abbiamo un rapporto di questo tipo. Paradossi, paradossi. I suoi eccessi sguaiati derivano da un eccesso di pudore. No, no, è vero. Che? Perché ride lui? Ride. È vero. L'eros espresso da Rosaria Lo Russo sonda il mistero del cuore e della mutanda insieme. Cioè, levati le mutande che ti devo parlare. Dell'amore ne parla come materia estenuata, senza il supporto del vissuto. È come se l'avesse letta da qualche parte, questa storia dell'amore. E qui viene in mente il martirio di sante rinunce, una geniale assurdità in una sorta di meridionalizzazione dell'immagine. Il sogno di una santità trattata e metabolizzata attraverso l'uso delle parole. Ascesi sessuale, depravazione dell'astinenza, il crimine dell'estasi, marchiato dalla traccia di un'irresistibile comicità. Esilarante. È una mistica vaneggiata che diventa poesia. D'altronde, se non c'è vaneggiamento, che poesia è? Ora vorrei dire anche una cosa un po' più generica. L'impossibilità per gli artisti è di grande conforto. Noi ci sentiamo molto confortati dagli abusi del linguaggio, come la vera arte che non vuole la miseria di compiuti profili, non vuole cedere al disonore di evidenze e vuole risparmiarsi l'umiliazione di essere troppo compresa. Questa è la vera arte. Poi è successo un episodio curioso, perché tanto tempo fa Rosaria mi invitò a mettere nero su bianco qualche pensiero sulla sua poesia, come se fosse un dottor Sottile. Relativa ai suoi versi, naturalmente, qualche cosa che riguardasse lei. Allora scrissi così, però non gliel'ho mai spedita questa lettera, gliel'ho letta per telefono. Ti ricordi? Sì. No, bene. Scrissi così, con te si aspetta quello che non arriva. arriva lo sfilacciamento di senso dentro una raffica di rimandi che consegna all'azzardo mentale per una pianificazione sistematica dell'ardimento. Sottolineo, pianificazione sistematica dell'ardimento. Importante questo. Denunci una lacerazione. La vocazione al sacerdozio e al negozio. La sacra intimità e il desiderio di accattivare tutti. È l'equivoco di senso che dichiarano quando, le parole quando dichiarano di essere poesia. Ma noi sappiamo che non è colpa del poeta, perché la poesia si ripropone e riattinge ai modelli del passato. I modelli che sono stati della poesia. Probabilmente solo qualche verace monaco zen, qualche matto rinchiuso o in qualche chiostro di 1000 anni fa, la poesia si annunciava al mondo senza equivoci, nella pienezza della sua innocenza. Allora forse si può vivere l'assoluto di un verso, cioè parole che non possono essere sostituite da altre. Sono quelle, devono essere quelle e basta. E questo è ragione poetica. È la stessa che ho avvertito nelle poesie di Rosaria Lo Russo. Grazie Renato. Mentre Renato parlava, io mi sono accorta che non ho portato il libro con i miei segni. Cioè, nella busta dove c'è i DVD di Santa Teresina, c'è il libro. Se no... Ultimamente, sempre con dei colloqui casuali con Renato Ranaldi. No, no, militare perché no. C'è da perdere tempo perché deve arrivare il libro. Mi sono accorta dell'importanza attualmente per me dell'impedimento come forma artistica. Infatti questo spettacolo lo facevo portando una scarpa enorme di Renato Ranaldi, che era veramente un dolore immane, no, da portare. Ora, siccome ritengo che questa poesia non possa essere letta come le mie poesie di prima, dove cantavo parodiando Dante, eccetera, qui invece cerco di mi rendo conto che non funziona molto bene, perché speravo di parlare peggio con questo affare. Comunque, se non altro sono brutta, che vale la pena. Però la bocca mi fa male, no? Cioè, qui c'è qualcosa che occlude, no? Questo ha a che fare con questo libro e con quello che è diventato per me oggi la poesia, un modo di mettersi in mostra come malati, non bugiardi malati al posto di tutti, quindi veri malati fra i veri malati. Le cose bistrattate dai molti sgomberi mi serbano rancore.

scalpi di cavallette allerte, fuoco alle polveri di casamicciola, per pulizie di primavere, dimentiche di fatti dinamici. Otturare le crepe, cremare i cadaveri, sbuffa imponendo polvere alla polvere, le ceneri siano disperse, ridisegnando reticoli di lumi a questi barbuti neroni, mamma liturchi annuncia l'annunciatrice, insomma scaltra ammiccando uno sconto di civiltà per chi imbiancasse poveri da spolvero, per chi l'aria da funerale, bocche disfatte da mano morte, manomettesse pure o ponzi pilati d'un altro canale. Evacuare i canili degli sfidanti sfedeli, rastrellare adozioni avide di stanza d'infanti, ripristinare i canili per sfacciare incappucciati, tornare alla lingua di casa una volta stravinto un vuoto. Qui il riferimento era ovviamente a Guantanamo, alle torture di Guantanamo. Dicevo, insomma, riga dritto il fronte compatto dei dementi. Niente di nuovo alletta il fronte occidentale. Le fronti coperte di pelle in polvere corrugano, diserbando, staccando arbusti e vane colluttazioni, accedimenti di guance smunte, gli ultravioletti di guerra corruschi annunciano signorine mezzo busto, con povere alla polvere, ceneri non violente di dispersi, pinchi, pallini, bifidi, tra infidi, batteri, tu sparati un paradiso artificiale, restaci se hai il coraggio di circondarti di veline scure, irsute, insistenti, scassa, arpe metriche e petecchie, dardi codardi, avanzi pimpanti di Guantanamera, bandiera rossa, faccetta nera. Suppura la suburra bubbonica delle cose spostate, ammassate, e ora esigono di ricevere degna sepoltura di carcasse, invalidanti beni di sconforto, seppur raccolte, indifferenti. Il dolo alle cose presenta dunque il conto ferocemente, cortocircuitando gli appuntati per aver protratto parvenze oltre il limite di un conservante, spacchettare come si secca il trucco sugli occhi crepanti del buffo dalle bianche ossute occhiaie, o una furtiva lacrima avversata nel giorno del nostro compito compleanno. Irreparabilmente puerili grandi occhi circondano invasori un vuoto statico, antefatto ad una discesa agli inferi senza sospensioni della pena. Subodora nel vuoto d'aria del risveglio una perdita crema di saliva sul cuscino. Le cose colte sul fatto impertinente dal lato, imperturbabili espongono penombre e pieghe, incrinate come rughe d'espressione. Le crepe simmetricamente segnalano rischi di selvatiche estinzioni o caducei fulminanti peritoniti d'intonaco rimbomba, un sordido risveglio riassopendosi, riassorbono le cose indispettite, due occhi glabri di basso sospetto, alla risibile missionaria ripudiata dall'irresistibile ascesa di una borghesia come dalla borghesia in rapida discesa.

Dai capezzoli appuntiti volatilizza una soddisfazione che disavvezza, ma lo stimolo al biasimo anale persevera sfiatando a fisarmonica. Allora, vezzosa fra i severi, spariglio ai sordidi gessati due occhioni grandi da morir dal ridere e come sempre sommergibile il mio cuore in un grasso, grosso isolamento aggrego. Festiva notte conviviale che palpeggi incoronando l'aria, ammutolisci lo sbadiglio appesantito dalla cena che scoraggia e distoglimi lo sguardo altrove dalla codardia. Basta. Ho concluso con questa poesia perché in realtà questa poesia ha a che fare con la mistica per me e in particolare, senza dilungarmi troppo, con l'epigrafe che apre il libro e quindi posso così rendere ancora più evidentemente accessibile la lettura di questo libro leggendo subito dopo questa poesia la epigrafe di Maria Zambrano, una grandissima filosofa novecentesca, l'unica che a mio parere sia riuscita a far sposare filosofia e poesia, notoriamente le due nemiche giurate. E questo libro vuole rispondere a questa sua, a questo suo periodo. Il cuore è il vaso del dolore. Può custodirlo per un certo tempo, ma poi inesorabilmente in un attimo lo offre. Ed è allora calice che tutto l'essere della persona è tenuto a sorbirsi. E se lo fa lentamente, con il dovuto coraggio, via via che esso si diffonde per le diverse zone dell'essere, comincia a circolare con il dolore, mescolata ad esso la ragione. Maria Zambrano. Grazie a tutti per la pazienza, credo che abbiamo parlato circa 77 ore, adesso possiamo passare in un'altra stanza dove in questo magnifico spazio abbiamo la possibilità di andare in tante stanze, che bello, e si può bere e mangiare qualche salatino, qualche ci ubriachiamo insomma dopo tutta questa tristezza.